Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. E allora, come se non bastasse la crisi finanziaria e le sue ricadute sull'economia reale, ci si mette anche il genio della truffa, Madoff. 50 miliardi di crack che sta coinvolgendo, a giudicare dalla lista dei nomi che sono già usciti, le boutique finanziarie più, come si chiamano in gergo, più blasonate, non solo grandi banche come Santander, ma anche operatori di fondi, gestori di fondi che giustamente si vantavano anche di avere una capacità di lavorare su strumenti molto molto particolari, anche con una gestione del risparmio, degli investimenti fatta anche in quel senso tutta particolare, tutta personalizzata. Ebbene, poi si è scoperto che prestavano i loro soldi a questo mitico genio del male, forse Bernard Madoff. 50 miliardi, racconteremo la sua truffa, che come molti giornali hanno scritto a partire dal Sole 24 Ore oggi, ricorda il classico metodo Ponzi, ossia quello dell'aeroplanino: i primi che entrano beccano qualcosa, gli ultimi beccano niente, ma o della catena di Sant'Antonio, per dirla con un linguaggio ancora più chiaro. Però la cosa incredibile è non tanto la catena di Sant'Antonio in sé, ma i nomi che vi sono entrati e i danni che questo sta creando. Dicevamo, piove sul bagnato, e non per collegarci all'aspetto meteorologico di questi giorni. Poi le borse, Mibtel meno 0,80 e 0,95% il calo dell'S&P MIB in linea con il resto d'Europa. Parigi perde meno 0,9, perde lo 0,9, Francoforte lo 0,4, Londra meno 0,6, l'America perde un punto percentuale sul Dow Jones e il 2,4% sul Nasdaq. Tra l'altro Madoff è stato anche il presidente del Nasdaq, tale era la reputazione di cui godeva a Wall Street. Il suo crack fa impallidire quello del mitico Jérôme Kerviel, accusato di avere sottratto, insomma, 5 miliardi di euro. E poi parleremo abbastanza in apertura di programma di quello che sta capitando nel mondo dei cambi, perché non è tanto l'euro su dollaro, anche se è in rafforzamento netto a 1,36,6 il rapporto di cambio, è il rapporto euro-sterlina, cioè la sterlina è scesa a 80, praticamente siamo a 0,89, è arrivata fino a 0,90, ossia con un euro si compravano 90 pence. Non era mai successo, e la Gran Bretagna sta diventando una specie di paradiso dello shopping per i turisti in euro. E infatti 90 pence è la prima volta nella storia, diciamo, da quando esiste il rapporto di cambio euro-dollaro. Poi la crisi e le dichiarazioni del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per quello che riguarda la capacità anche del sistema produttivo italiano di farcela, e altre dichiarazioni, il ministro Scajola, il presidente di Confindustria Marcegaglia, sempre in tema di crisi, difficoltà della congiuntura economica, oggi durante la consegna del premio Leonardo. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le notizie in breve. È salito oltre $50 poco fa il petrolio, non toccava questo livello praticamente dallo scorso 2 dicembre, quindi non tantissimo tempo fa, però insomma le attese sono, per quello che riguarda il mercato, che di un taglio della produzione. Praticamente l'OPEC si riunirà mercoledì, vuole applicare un corposo taglio alla produzione. Praticamente addirittura ridurre i giorni di scorte da 57 a 52. L'indice di fiducia delle imprese giapponesi è crollato a quota meno 24, la flessione più ampia degli ultimi 34 anni, lo ha segnalato la Banca Centrale Giapponese. L'indice si chiama Tankan ed è quello che fotografa il clima in cui il clima che vedono e che descrivono gli imprenditori, un livello così basso, ripeto, da 34 anni non si vedeva. E tra l'altro oggi il numero uno della banca centrale giapponese, la Bank of Japan, e quindi Masaaki Shirakawa, ha detto: attenzione, fino a poco tempo fa il Giappone era relativamente indenne dalle turbulenze dei mercati finanziari, ma il quadro è cambiato dal fallimento di Lehman Brothers in poi, cioè dal 15 settembre in poi. Sul 2009 pesano incertezze e rischi enormi. Anche la Suzuki si è ritirata dal campionato del mondo rally a causa della crisi economica dopo la Honda. Sono piccole notizie, ma danno spesso anche il senso e il segno dei tempi. Electrolux, primo produttore europeo di elettrodomestici da cucina, non riuscirà a centrare gli obiettivi stimati per il 2009 e si prepara a tagliare oltre 3.000 posti di lavoro. La Sony ha annunciato 275 licenziamenti a Barcellona, nella fabbrica dove produceva televisori al plasma. Mentre sempre sul fronte degli esuberi, la Commissione europea ha erogato 35 milioni di euro per aiutare 6.000 lavoratori italiani del settore tessile a trovare un nuovo lavoro. E poi, come raccontava già il nostro GR Extra Large, oggi giornata grigia non solo per il tempo a Torino. Sono chiuse infatti da oggi per quasi un mese le fabbriche italiane della Fiat da Mirafiori a Termini Imerese, quindi Torino è impropria come definizione, si tratta di tutto il gruppo Fiat. Tra l'altro restano attivi solo i lavoratori che stanno producendo la Mito, ma ancora per una settimana. Il provvedimento interessa complessivamente 59.000 lavoratori secondo la CGIL, 48.000 secondo l'azienda. Comunque saranno in cassa integrazione fino a lunedì 12 gennaio. Una buona notizia arriva invece dalla conferma dell'Istat che l'inflazione a novembre è scesa dal 3,5 al 2,7% e siamo al livello più basso da un anno a questa parte con l'inflazione. Nel dicembre 2007 infatti la crescita dei prezzi al consumo era del 2,6% e questo calo è arrivato grazie alla brusca frenata dei prezzi energetici. Il tasso di inflazione dei prezzi di benzina e derivati e gasolio è sceso da un più 10% a un più 3,3%. Buone notizie arrivano in particolare sul fronte dei carburanti. La benzina verde ha fatto un meno 10% rispetto ad ottobre e meno 7,5% rispetto all'anno prima. Il gasolio ha fatto meno 8,6% a novembre come prezzo rispetto ad ottobre e meno 2% rispetto a un anno prima. Per effetto dei rincari su alcuni generi alimentari, dice oggi la Coldiretti, però gli italiani spenderanno solo per l'acquisto di pane, pasta e derivati dei cereali 3,5 miliardi di euro in più quest'anno rispetto all'anno scorso, circa 140 euro a famiglia. E ancora non si capisce come mai, visto che i prezzi internazionali dei cereali in questione sono prezzi in calo, in netto calo negli ultimi mesi. Il premio Leonardo 2008, ne parleremo più avanti, l'ha vinto comunque Pierfrancesco Guarguaglini, presidente e amministratore delegato del gruppo Finmeccanica. Il presidente della Repubblica Napolitano ha detto appunto le qualità dell'Italia sono sorgenti di fiducia davanti alla crisi economica, anche se non possiamo nasconderci le difficoltà. E il ministro Scajola, sempre in occasione della consegna del premio Leonardo, ha detto: attenzione, la creatività e la qualità che ormai il mondo ci riconosce possono essere i punti di forza e devono rappresentare un elemento di fiducia per il futuro. Scajola ha poi ricordato che dal sblocco del CIPE giovedì, il sblocco dei fondi previsti dal CIPE, arriveranno 17 miliardi di euro per finanziare le infrastrutture per la mobilità, gli sviluppi della banda larga, l'ammodernamento degli edifici scolastici e la diffusione delle energie rinnovabili. E venerdì scorso è stato annunciato, sempre in tema di prezzi, che a partire da febbraio 2009 aumenterà il canone fisso di Telecom Italia, 1,26 euro in più di IVA al mese, scusatemi, 1,26 euro più l'IVA, per cui fa 1,51 euro al mese. Su questo è intervenuto oggi il presidente dell'autorità di vigilanza sulle telecomunicazioni, la GCOM, Corrado Calabrò, e il quale ha detto in qualunque via libera che dovesse arrivare sull'aumento del canone all'ingrosso di Telecom sarà inferiore alle richieste avanzate dal gruppo telefonico. Domani è l'ordine del giorno, vedremo che decisione prenderà la Commissione Infrastrutture e Reti, e comunque questa è una misura che va notificata a Bruxelles. Sulla base dei dati fino adesso abbiamo verificato e riverificato, non ci sarà una diminuzione di questo differenziale, ma anzi probabilmente ci sarà un aumento di questo differenziale, di questa forcella. Tutto quello che non è meno di 4,50 non peggiora, tutto quello che è più di 4,50 migliora la loro posizione concorrenziale. Ancora sulla proposta arrivata nel fine settimana dal ministro Brunetta, che per ora è una proposta, diciamo, che ha avuto reazioni soprattutto politiche, mi riferisco a portare l'età pensionabile delle donne parificandola a quella maschile, come chiesto anche dall'Europa, ricordo Brunetta, e quindi da 60 a 65 anni. Diverse opinioni, anche polemiche, c'è chi ha detto sì ma solo su base volontaria, c'è chi ha detto no, c'è chi ha detto sì e anche non su base volontaria. Ma comunque, per capire come dovrebbe funzionare il meccanismo proposto dal ministro, ascoltiamo che cosa ha dichiarato questa mattina nel corso del programma Dietro la Notizia Elsa Fornero, docente di economia all'Università di Torino e direttore del Centro di Ricerche sulla Pensione e Politiche del Welfare. Penso che non sia un'idea estemporanea del ministro Brunetta, perché qualche settimana fa l'Europa ci ha chiesto di procedere esattamente in questa direzione, nel senso che l'Europa è molto attenta, forse diversamente da quanto accade nel nostro paese, alle parità di trattamento tra diversi lavoratori e quindi anche alle differenze di genere. L'Europa disse che nell'ambito del pubblico impiego la differente età di pensionamento non era giustificata e che quindi l'Italia avrebbe dovuto adeguarsi. Qualche giorno fa il ministro Brunetta ha esattamente detto questo, ma il punto è che si tratta di un capovolgimento di mentalità. La mentalità che aveva all'inizio degli anni 70 portato il legislatore a consentire che nell'ambito del pubblico impiego le donne andassero in pensione a età inverosimilmente giovani, e cioè con 15 anni di anzianità contributiva, alcuni dei quali potevano essere stati dedicati alla maternità oppure al riscatto degli anni di laurea e quindi non corrispondevano sicuramente a 15 anni di lavoro effettivo, quella norma era stata dettata con lo scopo, così è scritto negli atti parlamentari, di lasciare che le donne tornassero alle famiglie. Quindi c'era un'idea che il ruolo della donna è nell'ambito familiare, che il suo compito è quello di allevare i figli e che il suo compito è quello di accudire il marito e la casa. Questo era alla base. Quello che c'è oggi alla base di questa richiesta non è una punizione nei confronti delle donne, vi facciamo lavorare di più, ma è esattamente l'opposto, cioè vogliamo darvi la stessa parità. La stessa parità ovviamente va realizzata prima nel mercato del lavoro e quella pensionistica è una conseguenza. Così Elsa Fornero. E adesso una delle notizie con cui abbiamo aperto questa puntata, mi riferisco al mercato dei cambi, non tanto all'euro che, ripeto, è forte a 1,36,6 nei confronti del dollaro, ma questa cosa è incredibile, per cui la sterlina è scesa fino a 90 centesimi, ossia un euro è arrivato a valere 90 pence, che non era mai successo nella storia dell'euro, ma praticamente c'è chi già scommette che l'euro si prepari al sorpasso del pound, della sterlina, per cui con un euro si compri almeno un pound o addirittura qualcosa di più. Ma soprattutto la Gran Bretagna e Londra, nel caso specifico, un paese sempre caro per noi italiani, caro sì effettivamente ma anche dal punto di vista del portafoglio, sta diventando un paradiso dell'euro shopping, come si chiama in gergo, cioè di chi va a fare shopping in euro. Ci colleghiamo allora con Londra, dove c'è Marco Niada, corrispondente del Sole 24 Ore. Marco, buonasera. Buonasera. Allora, io spero tu venga pagato in euro a questo punto, non lo so. Grazie a Dio, anche la pagnotta arriva da arrivando, diciamo, dall'Italia, dal continente, quindi a te va bene, tu tifi fortemente per il sorpasso dell'euro sul pound, ma insomma, come mai un indebolimento così forte? Ed è vero che si registrano orde di europei, francesi, tedeschi, italiani che vanno a fare shopping a Oxford Street, Regent Street, come se fossero praticamente centri commerciali? Allora, due cose. La prima è che bisogna considerare che, oltre al fatto che la sterlina si sta indebolendo, è l'euro che si sta irrobustendo, per cui è la combinazione delle due cose che sta facendo precipitare la sterlina in modo particolare. Per esempio, sul dollaro la discesa c'è, ma è minore. Le orde, diciamo che ce n'è di più del solito, ma non ci sono proprio vere orde, direi. Anche perché la crisi morde anche qui, morde anche da noi. È un fatto che, insomma, chiunque. La cosa curiosa è che inizia a esserci gente che viene a comprare casa a Londra, perché tra il mercato immobiliare, che fino adesso ha perso un 15-16%, oggi il presidente della il chief executive della Barclays ha detto che si aspetta che l'anno prossimo il mercato immobiliare perda un altro 15, quindi diciamo un 30-35, più la sterlina, c'è gente che magari inizia a fare un pensiero e dire: per quanto faccia tra mercato immobiliare e sterlina sia una rotta, non potrà restare così per sempre. Ecco, quindi alcuni là dove invece c'è diciamo l'impulso allo shopping, quello dipende anche dalle combinazioni delle compagnie aeree, se uno le prende all'ultimo momento, se conviene, eccetera eccetera. È un fatto che, rispetto, diciamo, parliamo solo degli ultimi due mesi o tre, perché dall'inizio dell'anno ha perso 25, gli ultimi due o tre mesi ha già perso un 15, quindi per certi versi la sterlina è conveniente. A, B, poi c'è turismo, C, ci sono i musei, quindi non solo vestiti, diciamo, ecco, ma un po' tutta la gamma, che va appunto dagli immobili, che è chiaro che non è una cosa che uno si compra come un paio di calze, però poi ci sono tantissime beni di consumo. Ecco, Marco, un'ultima domanda su questo tema. È vero che si inizia a dire nella City, quindi vari analisti finanziari, che forse la Gran Bretagna potrebbe, non dico entrare nell'euro, ma addirittura arrivare ad agganciare, o perlomeno arrivare ad agganciare la sterlina all'euro? Ma allora, guarda, intanto la prima cosa che vi ho detto all'inizio, in apertura di programma, almeno per quanto mi riguarda, il fatto che si possa arrivare a una parità non è ormai più un'ipotesi da scartare, è possibile che si arrivi a una parità. Poi qui c'è stato un gran dibattito, se ricordi, a un certo punto fu Barroso che disse: ma in fondo forse gli inglesi inizieranno a pensare se gli conveniva o no entrare nell'euro. Però c'è un ragionamento da fare su questo che si tende a dimenticare. Uno dei grossi problemi dell'economia inglese è stata la bolla immobiliare. Ora, immaginiamo se la Gran Bretagna, come poi è il caso dell'Irlanda, fosse stata nell'euro, qui avremmo avuto una bolla mastodontica, perché con tassi più bassi, solo adesso da due mesi, storicamente, da quando è stato introdotto l'euro, la Gran Bretagna ha tassi di interesse più bassi, fino adesso li aveva più alti. Quindi immaginiamo la Gran Bretagna che avesse avuto dei tassi di un punto, due, anche due e mezzo a un certo punto, al di sotto dell'euro, con questo mercato immobiliare avremmo avuto una deflagrazione a questo punto. Adesso un altro discorso, cioè conviene alla sterlina adesso agganciarsi all'euro? Non lo so, perché a questo punto l'economia britannica è messa così male che gli conviene svalutare più che possono, certo, poi casomai fare un rimbalzo. È ovvio che poi questo è un paese che non ha molto da esportare sul piano industriale, eccetera eccetera, questo è vero, però appunto possono cercare di salvarsi col turismo e altre cose. Per finire, l'ultimo problema è che però c'è un punto oltre il quale, se la svalutazione accelera, ci può essere, come dicono, run on the pound, cioè una rotta, scappano tutti dal pound. E ricordiamo qui tristemente nel 76, quando Dennis Hill, se tu ricordi che sei stato anche tu in Inghilterra, dovete andare col cappello in mano a Fondo Monetario e chiedere 2,3 miliardi di sterline per tappare il buco nella bilancia dei pagamenti. Ecco, quindi c'è un limite, cioè fino a un certo punto gli conviene che il pound si svaluti, se poi va giù troppo allora iniziano a imbarcare inflazione e poi dato che non possono esportare molto. Per cui, per comunque, insomma, anche tu sei d'accordo che l'ipotesi non sia irreali, anzi che possa essere un'ipotesi più che probabile quella di un pound euro quasi a 1-1, chi l'avrebbe mai detto solo qualche anno fa. Grazie a Marco Niada in collegamento con noi dalla sede del Sole 24 Ore di Londra. E restiamo in tema di finanza, ma l'abbiamo battezzato il genio della truffa. Ho usato il termine mitico in senso negativo, ci mancherebbe. Insomma, ci mancava, con i chiari di luna a cui assistiamo da mesi, anche l'ex presidente del Nasdaq, Bernard Madoff, che ha tirato un puffo da 50 miliardi di dollari ai nomi più blasonati della finanza mondiale e anche ad alcune boutique finanziarie. Eh sì, è proprio così, piove sul bagnato. Allora, abbiamo anche noi qualche vincolo però di tempo e c'è il meteo. Intanto saluto Paolo Madron del Sole 24 Ore. Buonasera Paolo. Buonasera. Ti chiedo un minuto di pazienza, anzi qualcosa di più, un paio di minuti di pazienza, perché c'è il meteo e la pubblicità e poi raccontiamo questa storia che, se non fossimo già in un periodo così negativo, farebbe quasi sorridere, perché insomma questo uomo è riuscito con il più classico degli aeroplanini, delle catene di Sant'Antonio, a fregare gente che insomma di solito si vanta di essere assolutamente esperta della finanza. Allora, Paolo Madron ne ha scritto anche in questi giorni, soprattutto ieri, fondi, doppi fondi e segreti delle frodi. No, perché adesso questa storia, concedetemi, tanto la borsa ha chiuso con un meno 0,8, fra un po' ne parliamo, non saprei neanche come definirla, visto quello che già è successo, visto già le cantonate che hanno preso i grandi guru della finanza sui prodotti tossici, il caos che hanno combinato, non sanno più dove sono finiti. Ci mancava solo il genio della truffa, Bernard Madoff, che ha costruito il più classico degli aeroplanini, ha fatto cadere dentro di tutti, vi dico subito, poi Madron ce lo spiegherà meglio, che lui gestiva fondi hedge, cioè faceva fondi di fondi, dava consulenze, insomma, spiegava alle boutique come gestire questi fondi. Sentiamo un po' che è successo. Self-made man, da bagnino di Long Island a direttore del Nasdaq, Bernard Madoff è diventato il simbolo di tutti gli eccessi della finanza mondiale. Gli ingredienti per una nuova edizione de Il falò delle vanità di Tom Wolfe ci sono tutti. E come 20 anni fa, in piena era reganiana, anche oggi i protagonisti sono i nuovi ricchi, divenuti tali grazie ad ardite speculazioni finanziarie. E del resto gli elementi di fiction si sprecano in questa vicenda. A cominciare dal piccolo ufficio al 17° piano del Lipstick Building a New York, in cui venivano tirate le fila della truffa da 50 miliardi di dollari, l'equivalente del PIL del Lussemburgo. La grande bugia, che surclassa il crack Enron da 31 miliardi di dollari del 2001, è 5 volte superiore a quello WorldCom del 2002. Ma come è stato possibile far cadere nella rete di fondi offerti da Madoff banche, capitani di industria, blasonate società di gestione del risparmio, oltre che il regista Steven Spielberg con il suo fondo di beneficenza o il proprietario della squadra di baseball dei New York Mets? Madoff aveva creato una società di consulenze e servizi che faceva leva sul cosiddetto schema Ponzi, dal nome dell'italiano che ha inventato il meccanismo della frode piramidale. Si tratta della classica catena di Sant'Antonio, nella quale vengono garantiti ampi rendimenti a breve termine solo ai primi investitori. Rendimenti di volta in volta pagati con i soldi di nuove vittime. Finché le nuove sottoscrizioni superavano le richieste di rimborso, tutto è andato liscio. Ma la crisi finanziaria ha fatto saltare il banco. Madoff aveva infatti ricevuto richieste di riscatti per 7 miliardi di dollari. Un'enormità rispetto agli spiccioli rimasti in cassa. Circa 300 milioni di dollari. E fin qui voglio dire, chi non ha mai visto l'aeroplanino, Paolo Madron, chi non ha mai conosciuto la catena di Sant'Antonio, la cosa sconvolgente di questa vicenda, oltre al danno da 50 miliardi, a parte che sembra che l'abbiano denunciato anche i due figli, lui non si capisce, dice che si è autodenunciato lui, forse sono i due figli che l'hanno denunciato. Perché non si facesse ulteriore male. Perché non si facesse ulteriore male, per amore del papà. Comunque, lui rischia fino a 20 anni di galera, una multa da 5 milioni. Ma la cosa sorprendente, ti dicevo, è che ci sono cascati, come ricordava anche la nostra scheda, insomma, la lista è incredibile, perché insomma, sono le banche esposte sono il Banco di Bilbao Vizcaya, potrebbe perdere fino a 300 milioni. Nomura, stiamo parlando, per chi non lo sapesse, dei nomi, ripeto, più blasonati. La giapponese potrebbe registrare una perdita di 225 milioni di euro. Santander, prima banca spagnola, seconda banca in Europa, anche lì. Esposizione per 2,3 miliardi, Unicredito da noi per 75 milioni, Banco Popolare un 60 milioni e poi BNP Paribas, che non manca mai, 350 in questo periodo, Societe Generale 10 milioni, AXA, Groupama, i francesi, Royal Bank of Scotland e poi la mitica Union Bancaire Privée che ha meno dell'1%, però insomma... potrebbe perdere fino a 1 miliardo ed è il secondo gestore al mondo nel settore di hedge fund, quindi stiamo parlando di gente esperta. Come li ha infinocchiati? Beh, scusatemi, lui si presentava con delle credenziali, insomma, uno che è stato presidente esecutivo del Nasdaq, insomma, non è, insomma, lo sconosciuto dalla porta accanto, no? Quindi probabilmente, come dire, ci si fidava, così come, non so, in passato ci si è anche fidati di altri personaggi, che, cioè, voglio dire, tanto per non andare lontanissimo, fino a una settimana prima che venisse fuori il crack, Calisto Tanzi era considerato uno dei grandi imprenditori italiani, venerato, riverito, osannato, considerato affidabile, quindi non mi meraviglia per nulla, anzi mi meraviglia che qualcuno si meravigli che questo Madoff abbia potuto mettere in piedi questa catena di Sant'Antonio, questa organizzazione e carpendo la buona fede. Poi, cioè, sai, il problema è anche questo, lui prometteva rendimenti stratosferici, no? 10-15%, per la verità negli anni passati già alcuni concorrenti si domandavano come mai, no? Però in quest'ansia di prestazione, che è una delle grandi malattie della finanza contemporanea ormai emersa in tutta la sua di più, di più, forma, voglio di più, certo. Ecco, alla fin fine uno non va neanche tanto a guardare per il sottile, quindi dagli soldi, perché questo qua te li fa rendere come nessun altro te li fa rendere. Allora ti giro la domanda, sì, che ce la pongono anche molti ascoltatori: ma è vittima o carnefice? Nel senso che tu facevi l'esempio di Calisto Tanzi, lì però eravamo di fronte intanto a delle falsificazioni, truffe, però quello che sta accertando, insomma, la magistratura è anche una complicità tra virgolette col mondo bancario, cioè non è che le banche non sapessero, non è che la Bank of America non sapesse che questo fondo di Tanzi non c'era, i debiti con le banche Tanzi li aveva, voglio dire, era un sistema che si teneva. Qui invece sembra che lui abbia proprio rifilato la classica sola a questi grandi gestori di fondi hedge. Che cosa vendeva lui in realtà? Beh, lui esattamente vendeva fondi di fondi, però poi c'è anche una, come dire, una grossissima attività di gestione patrimoniale su cui si glissa, che è importante, e si glissa secondo me per un motivo molto semplice, perché i nomi sono grossi. Primo, e seconda cosa, secondo me quei nomi gli affidavano dei soldi in nero. Allora, no, dico cosa vuol dire gestione patrimoniale, brutta. Spiego a tutti, i gestori possono essere quelli per tutti noi mortali, quelli dei fondi comuni. Chi ha tanti soldi invece magari se li fa gestire su persona, un po' come un abito fatto, diciamo, da sartoria piuttosto che comprato ai grandi magazzini. E allora lì si gestisce il patrimonio, non si vanno a gestire solo alcuni soldi. E è probabile, se ho ben capito Paolo, che grandi personaggi, lasciamo stare Spielberg col suo fondo, ma proprio abbiano affidato a Madoff i loro patrimoni e lui abbia deciso di mettere alcuni in azioni, alcuni in obbligazioni, alcuni in prodotti garantiti. In realtà non li metteva da nessuna parte, ci ripagava da nessuna parte, perché non credo onestamente che uno fa un buco da 50 miliardi facendo prettamente consulente ai clienti. Però se fosse così, e senza voler diventare populisti, che non lo siamo mai stati, tutto sommato c'è anche un po' di giustizia divina, perché se i soldi erano in nero di miliardari, si sono fidati e questo li ha raggirati come un venditore di pentole qualunque, o come diciamo certi prodotti che le banche europee hanno collocato in questi anni ai risparmiatori comuni, forse, no? Alla fine. Ci sono dei casi di gestori italiani degli anni passati, me ne vengono in mente due o tre che diciamo anche loro scappati con la cassa, nel quel caso erano scappati anche fisicamente, che la sfangarono alla fine perché nessuno di quelli che avevano affidato loro il patrimonio si presentarono a reclamare perché avevano paura del fisco. Esattamente, certo. E siccome credo che il fisco in America sia momentino più severo, sì, poi vai dentro veramente lì. Sì, credo che il danno, la quantificazione del danno, al di là della vicenda che è da libro, diceva anche la nostra scheda, altro che Tom Wolfe, qui c'è spazio per una seconda edizione del Falò delle Vanità. I danni veri, cioè è più l'immagine di l'ennesima botta a questo mondo della finanza che si è scoperta essere fatta anche da gran così non so come dire, cialtroni, possiamo usarlo. Quando uno è esposto come qualche banca spagnola, mi pare Santander, per qualche, insomma, 1-2 miliardi di euro, insomma, non è soltanto un danno simbolico, no? È un danno reale. Il tema vero in realtà è che, come dire, la finanza è globale ed è globale anche nella truffa, nel senso che, come dire, quando, come dire, salta, hai una truffa di questo tipo, è diventato impossibile ormai che le grandi istituzioni finanziarie ne siano immune, anche le nostre banche italiane, pur, come dire, mettendo le mani avanti, cioè, sì, poi non si capisce bene perché ho visto un po' di comunicati oggi, dicevano la nostra esposizione diretta con il fondo ammonta diretta, vabbè, quella è quella indiretta, diretta vuol dire quella che tu hai acquistato, sì, però certo. Se magari è una tua società che gestiva altri fondi, ha comprato un fondo, esatto, che a sua volta gestiva quel fondo, ritorniamo al problema da cui è nata questa crisi finanziaria, nessuno sa cosa c'è, chi ce li ha. Diretta appunto mi consola poco, però insomma come hai visto i cascami di questo fondo, no? In questo fondo arrivano a investire istituzioni tutto. In America, in Europa, in Asia, e quindi Nomura, appunto la Royal Bank of Scotland e poi appunto Union Bank e poi invece, certo che anche gli svizzeri ne escono in ginocchio da questa crisi finanziaria sia sul fronte prodotti tossici che non. Ma sai, come ho scritto ieri sul Sole, la cosa è incredibile, bisogna cominciare a pensare, uno pensa ad una finanza estremamente sofisticata, no? Fatta tutta di virtuale, di computer, di transazioni virtuali, di linguaggio astruso, algoritmi. Ecco, e invece, come dire, io, come dire, citavo La banda degli onesti, il film di Totò e Fabrizio, dove fa sentire con la banconota, cioè alla fine i sistemi poi sono quelli, anche questo Madoff aveva il sottoscala chiuso a chiave, la società di revisione inventata, straordinario, con il 78enne della Florida, sì, che faceva la segretaria, c'è veramente un romanzo lì dentro, fantastico, cioè, e questo voglio dire inganna Wall Street, mica degli sprovveduti, no, quelli che non dovrebbero essere sprovveduti. Sì, poi adesso, visto che noi la stiamo buttando anche perché non sappiamo come fare, ma è vero quello che dicono alcuni ascoltatori, certo che poi quando vai tu in banca o dalla società che ti fa consulenza sul risparmio, ti contano, diciamo, tutti i capelli che hai in testa e ti guardano molto bene se sei un'impresa, gli IAS, Basilea 2, se è affidabile, non sei affidabile, così poi si fanno infinocchiare quantomeno. Per cui tu non ritieni che ci sia una complicità, cioè lui è carnefice, non diciamo parte di un gioco, per concludere. No, io penso che magari adesso andando avanti con le indagini qualche complicità verrà fuori, mi pare difficile che uno metta in piedi un sistema così senza facendolo passare per una cosa, appunto per una catena di Sant'Antonio, punto e basta, con un ufficetto finto, dei revisori finti. Se no lo potevamo fare anch'io e te, se fosse stato così facile. Se no, ecco, credo che era fuori. Ma, insomma, questo, ahimè, ci stiamo accorgendo, questo sistema non sta pagando nessuno alla fine, anche dei grandi crack americani non sta pagando nessuno, qualche interrogatorio di fronte al sì, congresso, ma in carcere non abbiamo visto nessuno, domanda infatti molto incazzosa, retorica, del tipo come è venuto qui all'udienza con l'aereo privato perché non ha preso l'aereo, sì, però alla fine voglio dire, insomma, non vedo ancora, come dire, qualcuno che veramente paghi, perlomeno che cominci cominci a venire fuori, certo, una classe, diciamo, dirigente che è responsabile, si è resa responsabile di queste colossali, della situazione attuale, insomma. Questo è vero, cioè si vedono pochi arresti, non che non si sia fuori dagli arresti, ma insomma, poche sanzioni, pochi arresti, hanno distrutto, diciamo, ricchezza e hanno creato la peggior crisi economica degli ultimi 80 anni, 70 anni, poco importa, e ancora i nomi, le facce, i volti non si vedono, cioè qualcuno avrà deciso di buttare dentro prodotti tossici per decenni, qualcuno avrà deciso di comprare questi fondi, non vorrei che poi tutto finisse con Jérôme Kerviel, quel ragazzino di BNP Paribas, di Sogène, e appunto con questo tirasole di Bernard Madoff, insomma non riduciamola proprio così, c'è qualcosa di più serio in questa finanza che non sta funzionando. Grazie a Paolo Madron. Vabbè, non possiamo restare sul tema, tanto vedrete che qualche sviluppo in più ci sarà, interessante quanto diceva Paolo Madron, non solo le grandi società di gestione dei fondi, ma anche privati cittadini, miliardari che hanno affidato a Madoff i loro patrimoni, che adesso potrebbero non venire fuori per paura del fisco americano, perché da quello che si capisce alcuni di questi patrimoni erano un po' in nero. La borsa, meno 0,6% S&P MIB, meno 0,4% il MIBTEL, meno 0,90 Parigi, meno 0,2 Francoforte, più 0,1 Londra, meno 0,7 l'America, e il Nasdaq perde il 2%. Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Visto che ne parlavamo, l'effetto sui bancari italiani, da noi non sono usciti così tanti gruppi bancari come penso in Spagna, in Francia, però insomma Unicredit e Banco Popolare, ne hanno risentito? Sì, in borsa Banco Popolare durante la seduta è arrivata a perdere oltre il 5%, soprattutto questa mattina, quando ancora peraltro non era chiara l'esposizione del gruppo. Poi in verità in tarda mattinata la banca ha precisato la propria esposizione, che sul patrimonio dovrebbe comportare una perdita al massimo di 8 milioni al cambio attuale, ovviamente tra euro e dollaro, e le azioni hanno chiuso in calo del 3,85%. Poi sono andate male anche le Unicredit, meno 4,2%. L'istituto di Piazza Cortusi ha precisato di essere esposto verso i fondi Madoff per 75 milioni. D'altra parte gli analisti sono un po' al lavoro a cercare di comprendere anche l'esposizione cosiddetta indiretta, perché è vero sì che le perdite ricadranno sui clienti, però come spesso accade, poi la banca comunque deve far fronte in qualche modo, deve intervenire, quindi magari avrebbe, certo, perdite, però sono solo ragionamenti per adesso degli analisti. Mm-hmm. L'unica cosa certa è che l'istituto ha 75 milioni di esposizione. Vabbè, ma insomma vedremo poi che cosa succederà in questa vicenda. Non è sicuramente né Unicredit né Banco Popolare, non sono sicuramente le due banche più esposte, pensiamo alla Spagna con Santander oltre 1 miliardo, ma non solo, e così come alcune banche svizzere. Andiamo avanti, oggi negativi anche gli assicurativi, Alleanza ha perso il 4%, Fondiaria il 3,90%, ma che è successo? Sì, oggi diciamo che c'era un report appunto un po' critico nei confronti degli assicurativi, che ha scatenato le vendite. Il report di Deutsche Bank, la banca tedesca, infatti ha rivisto al ribasso tutte le valutazioni delle principali compagnie assicurative, e quindi questo in una giornata appunto di incertezza ha un po' incoraggiato ordini in vendita. Ancora sui titoli, al di là dei bancari e degli assicurativi, oggi si è mosso bene in Europa il comparto energetico, da noi con petrolio sopra i $50, Saipem più 5,9, devo dire Eni più 0,5%, Lottomatica guadagna il 4%, Steam Electronics il 2,2% di rialzo, Autogrill 1,4%, la Banca Popolare di Milano più 1,4%. Ci avviamo alla conclusione, vi ricordo che oggi il programma termina alle 18, perché dopo il GR vi sarà lo speciale che dedichiamo all'esito elettorale in Abruzzo, E quindi andiamo avanti sui titoli. Vorrei capire su Fiat come si sta muovendo il mercato, perché mi sembra una settimana un po' più tranquilla, ma il titolo è sceso di nuovo sulla soglia dei 5 euro, meno 1,8. Sì, Fiat peraltro stava andando bene questa mattina, anche su indiscrezioni di stampa che ipotizzano colloqui, ma non sono stati assolutamente confermati, tra Fiat e Peugeot. D'altra parte nel pomeriggio poi Fiat ha imboccato la strada del ribasso insieme un po' a tutto il comparto europeo dell'auto, perdendo appunto l'1,8% e portandosi poco sopra la soglia dei 5 euro, ha chiuso a 5,06 euro. Ancora sui titoli, l'ultimo gruppo di titoli riguarda i migliori e i peggiori in assoluto. BNP Paribas, la peggiore a Milano e la peggiore anche in Francia dopo l'esposizione con il mitico. Guarda che quando dico mitico è perché insomma è riuscito veramente a fregare dei nomi. Madoff, dei nomi impossibili da fregare altrimenti, meno 9,9%, e poi Poligrafica San Faustino meno 5,7%. Molto bene Arena più 22,8%, Schiaparelli più 33%. Arena è la vicenda che conosciamo dell'ingresso del nuovo fondo. Sì, esatto, ha riacceso un po' i riflettori sul titolo che corre. Poi si tratta sempre di titoli poco liquidi, per cui bastano poche notizie per farli muovere al rialzo o al ribasso. Grazie anche a Eleonora Michè di Radio Cori, il Sole 24 Ore. Ci avviamo alla conclusione del programma con una risposta, una domanda che è quella che molti di voi ci stanno facendo, ma insomma come si fa a capire se questi sono fondi così a rischio? Alcuni citano un fondo che dà rendimenti del 13% con sede a Panama, ecco. Quando il rendimento è a due cifre in questo periodo, io qualche sospetto ce l'avrei. Da Sebastiano Barisoni, la grudo, una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Focus Economia.